fase magari ridotta. Quindi passo senz'altro la parola a lei. Passerei la parola a Piera. Buongiorno a tutti, vi diamo quindi un resoconto sulla situazione in paese dopo la tempesta battutasi su parecchie zone della Lombardia, tempesta che non ci ha permesso ieri di continuare regolarmente con i programmi della radio. Moltissimi sono stati gli alberi abbattuti e i cartelli stradali divelti. In via De Gasperi all'angolo con via Fabio Filzi un cavo elettrico è stato strappato e giace tuttora per terra. Una zona di Boncucco è ancora senza energia elettrica, mentre una parte del muro sperimentale della perimetrale della Manuli, il lato via San Maurizio all'Ambro, è crollato. Molti sono stati i tetti rovinati, specialmente per quanto riguarda le case di non recente costruzione. Anche in centro paese la situazione non è delle migliori, tegole spazzate via dalla furia del vento, insegne divelte e fatte rotolare per metri sull'asfalto, rami di alberi spezzati e persino automobili nel mezzo spostate nel mezzo della carreggiata dalla furia degli elementi. Inoltre molte sono state anche le antenne televisive letteralmente strappate dai loro sostegni. Anche la nostra emittente ha dovuto sospendere le trasmissioni, come vi avevo già preannunciato in precedenza, per il resto del pomeriggio. Dopo aver fatto il punto della situazione, le trasmissioni sono potute riprendere regolarmente verso le ore 20:30, nello stesso momento in cui anche nella chiesa parrocchiale tornava la corrente elettrica. È stata registrata inoltre una mancanza d'acqua in tutte le case per tutta la durata della tempesta ed anche per qualche tempo dopo. Verso le ore 20:30 però tutto è tornato normale. Ingenti i danni hanno subito le coltivazioni ortofrutticole. Gli ortini che sono davanti alle nostre case sono stati completamente rasati al suolo, soprattutto nelle zone periferiche, diciamo via dei Mille, Sant'Ambrogio eccetera, dove non essendoci case affiancate le une alle altre, la tempesta ha avuto maggiore potenza, per cui i danni sono stati anche più ingenti che non in centro paese. E questo è un primo bilancio frettoloso dei risultati di questa tempesta che siamo riusciti a raccogliere tra questa mattina e ieri al termine del temporale. Questa tempesta che si è abbattuta su Brugheri e su tutte le zone della Lombardia. Naturalmente nessuno mai pensava a un disastro di questa portata. Pensavamo tutti sicuramente che ci sarebbe stato un bel temporale oppure dei bei temporali uno di seguito all'altro, ma nessuno si augurava certamente una tromba d'aria di tale portata. E perché da che c'è mondo è mondo queste calamità naturali sono state le più disastrose, e sia all'epoca dei nostri nonni, quando loro pregavano perché fosse allontanata la tempesta e le alluvioni per poter proteggere il raccolto che in questo periodo veniva a maturazione e portava così diciamo il cibo per tutto l'inverno e per tutta la primavera, insomma per tutto l'anno, sia che con questa tecnologia altamente avanzata anche noi purtroppo non siamo in grado di prevenire queste furie e di renderle perlomeno innocue, e nonostante tutto, nonostante questa nostra tecnologia, sono ancora capaci di paralizzare un'intera città. Questi sono i primi, sono le prime, diciamo la prima situazione di quello che è stata, di quello che è stato il bilancio della tempesta di ieri pomeriggio, e ci riserviamo di darvi ulteriori informazioni, magari molto più specifiche, molto più dettagliate, su quello che sono stati i danni e su quello che si sta facendo in questo momento per porvi rimedio nei prossimi notiziari di Radio Proposta. Quindi vi diamo appuntamento a lunedì, vi ringraziamo di tutto dell'ascolto che ci avete dato in questo momento, un buon proseguimento con i programmi di Radio Proposta e una risentirci a presto. Termina questo notiziario flash di Radio Proposta.